24 mattino. Coronavirus è stato davvero ed è un gran pugno nello stomaco che ci ha totalmente destabilizzati. Dico coraggio, facciamoci coraggio come stiamo facendo egregiamente, elegantemente l'uno con l'altro. Io lavoro in una catena di supermercati, guardi che ha ragione Zaia, gli anziani soprattutto la mattina vengono a comprare un etto di prosciutto e il pane fresco, non c'è, è come parlare col muro, poi si lamentano vedendo le pagine piene di annunci funebri per le persone anziane morte. Mi faccia capire, ma perché la Protezione Civile dice una cosa, cioè di stare in casa assolutamente, e la circolare ministeriale invece acconsente a fare le passeggiate, a fare i giretti in bici, a fare le corsettine, purché a distanza di un metro uno dall'altro. Ma che cavolo sono ste cose? Ma io facevo una riflessione stupida, e se domani uscisse finalmente un vaccino per questo Covid-19, e sarebbe fantastico, tutta quella manica di scienziati Novax che ci hanno tempestato di cazzate, cosa direbbe, cosa farebbe? Bah! Oh, buono il punto sui Novax, eh? Buono! Oh, avete notato che sono completamente spariti? C'è stato qualche tentativo vago nei siti quelli, no, che con le teorie del complotto, di dire è un complotto anche questo di Covid-19, è un complotto perché le case farmaceutiche ci vogliono lucrare, poi però si è tutto spento molto rapidamente. Insomma, in tutto il dolore, in tutta la sofferenza, un vantaggio di questa situazione è che la parola è tornata alla scienza indiscutibilmente. Non abbiamo mai avuto così tanti scienziati in televisione come in radio come in questo periodo e sui giornali. E questo è un elemento positivo, perché quando arriva l'emergenza, quando arriva la difficoltà, è alla gente seria che bisogna rivolgersi. La questione degli anziani che vanno ogni giorno a fare la spesa, che è un po', risponde un po' a quello che ci diceva anche un altro ascoltatore nei giorni scorsi. Diceva: io faccio il bancario, è pieno di gente che viene qua anche per le scemenze. L'ABI ha fatto un comunicato, ne trovate traccia anche sul Sole 24 Ore oggi, per dire: non venite in banca se non per le cose necessarie, per le cose importanti. E poi sul tema la Protezione Civile dice una cosa, il decreto ministeriale dice un'altra. Il punto è quello, ancora una volta, si sta cercando di fare qualcosa che fa appello anche alla responsabilità personale di ciascuno di noi, alla responsabilità individuale, al cosa fare, al come farlo e a quando farlo. È chiaro che un decreto non può normare nel dettaglio ogni singola uscita che faccio. Probabilmente la storia della corsetta, aperte virgolette, chiuse virgolette, è fatta anche per, insomma, non far impazzire le persone, però insomma è... tutto sta a noi, a come ci comportiamo, a come agiamo. È la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:22 minuti e 54 secondi di lunedì 16 marzo ed è la parte, come sapete, dedicata alla rassegna stampa. Le vostre voci continuate a mandarle al 349-238-6666 via messaggi su WhatsApp. Allora, le prime pagine dei quotidiani. Il Sole 24 Ore oggi ha un'edizione, normalmente l'edizione del lunedì è un'edizione fredda, è un'edizione settimanale, oggi è, come si dice, fresca invece, insomma, è è stato prodotto ieri. Sanità, tasse, lavoro e mutui, tutte le misure del governo, è il titolo principale, con una serie di foto. Ci sono quella del parroco che fa la messa con le foto dei fedeli in chiesa, ci sono le foto dei fedeli sulle panche, ci sono gli striscioni che ho scritto andrà tutto bene, ci sono gli operatori sanitari, le bandiere italiane ai balconi. Di taglio centrale, la Fed che taglia a sorpresa i tassi e poi le regioni che propongono tamponi a tappeto. Il Corriere della Sera, uniti è il periodo più a rischio, è un'intervista col Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale dice saranno settimane dure. Il Messaggero, virus, bonus a medici e lavoratori, quindi ancora il tema economico con la sospensione di mutui e tasse. Un muro antivirus è il titolo della Repubblica, la parola d'ordine è arginare il contagio. La Stampa, finanziaria d'emergenza antivirus. Il Quotidiano Nazionale, la Lombardia, faremo l'ospedale, si parla di quello in fiera naturalmente, del quale molto avete sentito parlare. Arrivano i soldi, è il titolo del giornale sulla bozza del decreto che verrà varato oggi. Protezione in civile è quello di Libero, incapace di provvedere all'indispensabile, scrive il Quotidiano. Mascherine, fisco e zone rosse, il governo ha tradito il nord, è il titolo della Verità. Cliniche private precettate è quello del Fatto Quotidiano. La Gazzetta dello Sport, per darci un segnale di speranza, intervista Sinisa Mihajlovic, che ci fa coraggio. Dopo sarà bellissimo, dice Mihajlovic. E veniamo, come sempre, in questa prima parte della rassegna stampa. Tra poco con Paolo Mieli arriveremo a tutte le parti centrali che hanno a che fare con il coronavirus. Restiamo sul tema, ma con qualche piccola storia. Magari anche qualche storia che può farci sorridere o darci speranza. Come quella che arriva da Quotidiano Nazionale. Siamo a pagina 17, il pezzo lo scrive Valentina Scarponi e devo dirvi che oggi io che mi lamento perché con tre figli, uno dice tre figli in casa, insomma tutto sommato dopo due giorni, tre giorni inizia a diventare pesante. Titolo è Noi, 11 figli e il risico, in casa non ci si annoia, e lo voglio bene, lo credo bene. Racconta Valentina Scarponi appunto da Perugia, dal ping pong in garage alla preghiera, i segreti di una super famiglia di Perugia per passare il tempo e non pensare al virus. Ci sono la musica, i giochi da tavolo del passato da rispolverare, la fede, dialoghi in famiglia che diventano un'opportunità per nuovi confronti. Sara Aquino, madre perugina di 11 figli, ci accoglie, seppur virtualmente, ovvio, all'interno della sua quotidianità, in questi giorni nei quali l'emergenza del Covid-19 ha imposto a tutti di non uscire salvo necessità. Se fosse qui lei avrebbe l'emicrania dopo due minuti, dice questa donna che insieme al marito Vincenzo deve gestire una famiglia numerosa. I ragazzi hanno dai 23 ai 9 anni d'età, adolescenti compresi, specifica la giornalista sapendo evidentemente bene di cosa si tratta. In casa, oltre ai due genitori, ci sono al momento 7 figli. Siamo in 9 ore in questa casa affollata, non ci si annoia un istante. Non è sicuramente un compito banale occuparsi 24 ore su 24 della gestione di tutto. Il segreto, ce lo spiega Sara, abbiamo orari della giornata stabiliti dalla sveglia, dal momento del gioco e quello dei compiti, ma quando si ha a che fare con una famiglia così numerosa, spesso sono i fratelli a educarsi e a riprendersi fra di loro, a ricordarsi a vicenda di lavarsi le mani o rifare il letto, ad esempio. Si assiste a quella che viene definita educazione orizzontale piuttosto che verticale. Il mio lavoro così è ridotto. E però, qual è il segreto di Sara? Dice, per noi è dura, essendo stati anche in 13 sotto lo stesso tetto, per noi l'organizzazione è sempre stata fondamentale. Ora che siamo tutti a casa, abbiamo finalmente del tempo per parlare e per riunirci, ma soprattutto i ragazzi hanno un'occasione per conoscersi più a fondo. E beati loro che riescono a resistere, chissà per quanto. Altra storia, e storia di speranza, di coraggio se volete, è quella che ci riporta il giornale a pagina 18 ed è la storia di Luca, si chiama Luca Martini, ha 29 anni, è titolare di una delle due farmacie del paesino del Padovano che è stato assieme all'Odigiano il primo focolaio dei contagi, Vo, come sapete. Ha scelto di essere messo in quarantena a Vo quando avrebbe potuto restarsene nella sua casetta di Vicenza. Il comune è stato blindato, racconta, solo alle ore 7 del mattino di lunedì 24. Così io e mia madre, titolare dell'altra piccola farmacia nella frazione di Vo Vecchio, abbiamo fatto le valigie e alle 6 del mattino di lunedì abbiamo varcato l'ingresso del paese prima che venisse sigillato, in modo da continuare a garantire il servizio farmaceutico alla cittadinanza. È un piccolo grande gesto di senso civico, non chiamiamolo eroismo, insomma, che è costato a Luca e alla mamma una clausura di 14 giorni. Un'esperienza che racconta in un'intervista a Punto F, rivista di categoria. La scelta mi è sembrata piuttosto scontata, dice. Non potevo certo permettere che un paese di 3.300 anime rimanesse senza possibilità di approvvigionamenti di farmaci. Il nostro applauso, dunque, il nostro ringraziamento a Luca Martini. Una pausa. Mattino. Oh, e fa notare un ascoltatore che 11 persone in casa, come la famiglia della quale abbiamo raccontato prima, è un assembramento. Tecnicamente lo è. E va bene, dai, anche qualche battuta ci vuole ogni tanto in questa situazione. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, io vorrei partire con te da notizie, spesso lo facciamo, soprattutto quando queste notizie arrivano dagli Stati Uniti, con notizie che non troviamo sui quotidiani, ma che in realtà appunto sono sulle agenzie. A partire dal fatto che ci pare che questa notte l'America finalmente abbia capito che c'è qualche problema. Los Angeles e New York chiudono ristoranti, bar e musei, Las Vegas spegne tutto e chiude anche i casinò. Insomma, dopo una fase, per così dire, di denial, l'amministrazione Trump finalmente ha preso di petto la questione, mi pare. Anche se è brutto vedere che invece di arrendersi all'evidenza guardando i casi stranieri, un paese debba accorgersi quando le cose arrivano dentro da lui. E a questo proposito sono due i casi internazionali che più colpiscono. Uno, quello di Boris Johnson in Inghilterra. Io ho studiato bene i giornali, non c'è nessuno scienziato, nessun tecnico, almeno per quello che ho letto io, che accetti o applauda la ricetta Johnson, quella di creare l'effetto gregge. E questo fa piuttosto impressione, cioè l'alter ego di Trump sulla scena mondiale, il premier inglese Boris Johnson, sta adottando a una ricetta che potrebbe portare, dicono tutti, a centinaia di migliaia di morti. Tutti sono impressionati a quello che si legge. Sì, perché la scelta qual è stata? Chiariamola agli ascoltatori che magari nel fine settimana si sono distratti. Lasciar correre il virus, in sostanza, non prendere provvedimenti drastici come quelli che sono stati presi per esempio in Italia, per esempio in Cina, che progressivamente vengono presi da altre nazioni europee, penso alla Spagna, tanto per fare un esempio, ma invece appunto di lasciar proteggere procedere il virus per arrivare a una cosiddetta immunità di gregge. Con lo stesso Boris Johnson che ha avvertito: attenzione, perderete molti dei vostri cari. Insomma, questa è una. Sì, anche se ieri, poi cioè, le cose sono più complesse. Ieri Johnson, unico in Europa, ha dato ordine, anzi, il suo ministro della salute di Rivera ha dato ordine a tutti gli ultra settantenni di comportarsi, chiudersi in casa e comportarsi come se fossero ammalati, contagiati. E questa è una iniziativa interessante, cioè qualsiasi persona abbia più di 70 anni sia chiusa in casa, non si muova per nessun motivo, mandi altri, si adatti, ma si comporti come se fosse contagiato. Forse questo può bilanciare la descrizione di cui parlavi prima, ma l'altro paese che genera allarme è la Francia, perché la Francia è già colpita abbondantemente dal virus. Ieri ha deciso inopinatamente di tenere le elezioni municipali. I francesi si sono ribellati, è la prima volta che hanno un'affluenza bassissima tra il 44 e il 47%, alle municipali in Francia si va a votare più che alle politiche, ma non è stata abbastanza perché chi prende il Corriere della Sera, pagina 14, verrà oltre a un articolo di Stefano Montefiori, che una fotografia impressionante di una folla sul Canal San Martino a Parigi, che malgrado le indicazioni del governo fanno festa, insomma sono come quelle sono immagini. Là seduti a godersi la giornata di sole, diciamo. No? Pazzesco. Se posso fare una previsione, secondo me vedrete che le elezioni in Francia sono a due turni, vedete che il secondo turno non si farà, perché le conseguenze, quindi saranno costretti a tornare sui loro passi, e le conseguenze di questa pazza domenica di Parigi, pazza domenica francese, per la cronaca in testa la sindaca uscente, Hidalgo, Anne Hidalgo, ma sono convinto che non si farà il secondo turno, perché ora quando dovrà essere l'appuntamento col secondo turno saremo come sì. in Italia, sì. anche in Francia. Allora, più avanti andremo a tutta la parte dedicata al decreto che verrà varato questa mattina con, lo abbiamo già detto perché qualche ascoltatore ci scrive, con qualche perplessità, perché insomma c'erano delle scadenze fiscali, per esempio quella dell'IVA, oggi, e il decreto viene varato alle 9 di questa mattina, quindi insomma è oggettivamente curioso, anche se nella sostanza già si sapeva cosa sarebbe contenuto. Però prima ti vorrei portare, Paolo, su tutti gli altri metodi di controllo dei quali si sta discutendo, di cui uno arriva dalla Spagna ed è l'utilizzo dei droni, e dall'altra parte il sistema sudcoreano sul quale il governo italiano starebbe facendo una riflessione, no? Sì, e poi un altro arriva da Israele, che ha attivato la geolocalizzazione dei servizi segreti per tracciare i positivi, e questo metodo coreano in Corea ha funzionato. Si tratta di prendere caso per caso i positivi, tracciarne tutti gli spostamenti. La cosa incredibile, sai qual è? Ecco, per vedere una nota positiva, che in Israele c'è una piena collaborazione, piena adesso, non esageriamo, ma c'è una grande collaborazione fra palestinesi e israeliani di fronte al morbo, mentre in Italia, come tu hai ricordato all'inizio, continuano le polemiche ereditate dalla situazione politica precedente. In Israele, a sorpresa, palestinesi e israeliani collaborano in questi progetti per frenare il virus. Molto interessante, perché come tutti ormai stanno dicendo, il mondo in cui ci troveremo quando usciremo da questa epidemia sarà molto diverso da quello che ci siamo lasciati alle spalle. Quindi, ebbene, se posso dare un suggerimento anche alla nostra politica, lasciate perdere le polemiche che avevate fino a un mese fa, lasciatele perdere, non sono insomma non sono più il tema centrale, perché adesso è uscirne, il primo comandamento, e quando ne usciremo saremo tutti molto diversi. Sì. Scusami. Sì, no, prego, giustamente. La pagina del giornale, pagina 11 del giornale, quella che dovete leggere se volete farvi un'idea di a che cosa stia pensando il governo, secondo Giuseppe Marino, che è il giornalista che scrive l'articolo. Gli infetti seguiti da app e telefonini, il governo tentato dal metodo coreano, quindi Seul usa la tecnologia, esatto, GPS per tracciare i sospetti contagiati, un controllo di massa che ovviamente pone dei grandi problemi di privacy, ma che potrebbe essere preso in considerazione. In sostanza, lo dico agli ascoltatori, come funziona in Corea? Funziona che c'è questo tracciamento GPS, ma soprattutto c'è un sito pubblico nel quale ci sono delle applicazioni nelle quali i cittadini sudcoreani possono controllare se sono stati in una determinata ora e in un determinato luogo nella stessa area nella quale c'era un contagiato, e in questo modo capire se eventualmente possono essere stati contagiati anche loro. Ovviamente questo genera grande apprensione, perché come si capisce, un conto è farlo in emergenza, ma poi questi sono modalità di controllare l'individuo, la libertà dell'individuo, che in parte rimarranno anche dopo. E ci sono alcuni giornali, in questi giorni più di tutti l'ho fatto il Manifesto, ma anche altri giornali hanno mostrato questa necessità, che dicono attenti, per esempio questa modalità va di pari passo con uno svuotamento dei parlamenti, no? Sì. Come se venissero sospese le attività parlamentari, mentre invece oggi molti giornali suggeriscono che le attività parlamentari si trovi il modo di farle continuare, ma non eccediamo nel clima di emergenza, che poi tra l'altro si può fare disordinato, perché altro elemento che viene messo molto in discussione è che ci sono due commissari adesso all'emergenza, e questa cosa, come sai, stanotte ha provocato dei ritardi nelle decisioni del Consiglio dei Ministri, per questo è stato in parte rinviato oggi, ne parla anche in intervista al Corriere della Sera il primo ministro Conte. Insomma, stiamo attenti a tutto quello che è un eccesso che incide sulla democrazia italiana. Sì. Segnalo invece, per quanto riguarda la questione di Israele, il pezzo lo trovate a pagina 14 del Corriere della Sera, la stessa pagina nella quale c'è la foto dei francesi in festa sul Canal Saint-Martin ieri a Parigi. È la geolocalizzazione dei servizi segreti per tracciare i positivi e le polemiche che ci sono in Israele. Prima di andare al traffico, già che ci siamo, nel frattempo in Israele l'incarico per formare il nuovo governo è stato dato non a Benjamin Netanyahu, che comunque in questo momento è quello che prende le decisioni sul tema, ma al suo rivale Gantz. Visto che ci siamo, un elemento anche di politica va segnalato, Paolo. Esatto, credo che sia improbabile allo stato attuale che Gantz riesca a formare un governo, ma forse, data la situazione eccezionale, e forse coglierà l'occasione, e così verrà voltata anche una pagina storica in Israele, perché, come nota, Netanyahu è stato il primo ministro più longevo, anche se dovesse smettere stamattina di fare il primo ministro, è stato più longevo nella storia di Israele. Il traffico, e poi andiamo appunto al decreto. "24 Mattino". Spezia, io guido il bus e noi non abbiamo ancora né mascherine né guanti, e tecnicamente ci sono diversi anziani, diverse persone anziane, diversi per esempio richiedenti asilo che comunque sia si spostano, diversi cittadini che si spostano sul bus la mattina e non tutti vanno a lavorare, cioè, quindi voglio capire, cioè, dov'è questo blocco, cioè, anche sui tram, chi ce lo garantisce a noi la distanza di un metro? Per i mutui stop al pagamento del mutuo della casa, ma io che sono affittuario non c'ho nessuna agevolazione da parte dello Stato? Ci arriveremo a questo, poi scenderemo nei prossimi giorni nel dettaglio di tutte le misure. Detto ciò, l'apertura del Sole 24 Ore e l'altro dell'ascoltatore che guida l'autobus, non lo commento, perché insomma è chiaro che è ancora una volta il tema della responsabilità individuale, del muoversi solo se necessario, dello stare a distanza di un metro, sono tutte regole nelle quali non possiamo aspettarci che ci sia un poliziotto o un militare o un carabiniere ad ogni angolo di strada e all'interno di ogni pullman. Siamo noi che dobbiamo comportarci in un determinato modo, che è diverso rispetto a quello al quale eravamo abituati fino adesso. Veniamo dunque al decreto che verrà approvato questa mattina nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe iniziare alle 9 a questo punto e al quale è dedicata un ampio spazio, Paolo, sul Sole 24 Ore, che oggi esce con un numero fresco, cioè non è il settimanale, è stato chiuso ieri, insomma, no? Sì, ha colpito l'enorme, il Sole 24 Ore ne fa un grande elenco, le norme aspettiamo che vengano varate, l'elenco di quelle fatte dal Sole 24 Ore è un elenco già di quello che è presumibile, sono in corso d'opera. A me ha colpito in più sul Sole 24 Ore degli articoli dedicati ai medici, sia requisizioni a tutto campo, medici in tricea, altro la pensione, questa cosa della pensione interessante, si richiamano in campo i medici pensionati, perché sono quelli che hanno più grande esperienza, e quindi quelli che sono andati fuori ruolo, quelli che sono andati fuori ruolo vengono richiamati, ma vengono richiamati con dei contratti, non richiamati così per un weekend d'emergenza. E poi un altro articolo sempre dedicato al medico, questo è di Federico Gelli e Maurizio Azzan, che pone una questione che vedrete fra breve si porrà: se il medico dà bersaglio di pretese si trasforma in angelo custode. Vuol dire che ci sono tutte quelle norme che regolano i risarcimenti che si possono chiedere ai medici, che adesso andrebbero, secondo la proposta di Gelli Azzan, andrebbero riviste, integrate, rifatte da capo, perché sennò i medici si possono trovare a prendere decisioni in uno stato d'emergenza che poi possono essere sindacate e portarli a richieste di risarcimento. Tutto da leggere questo articolo, sì. Responsabilità e coronavirus. Sì. Poi, se volete tutti i dettagli su appunto questo decreto, c'è proprio uno speciale sul Sole 24 Ore, lo trovate, e con tutte le misure sotto i 2 milioni di ricavi, stop a tasse e contributi, bloccati gli atti del fisco e della riscossione, l'estensione degli ammortizzatori sociali, l'indennità e i congedi per il lavoro indipendente, quindi per il lavoro autonomo. Tra l'altro si parla anche di questa una tantum da 600 euro per autonomi, liberi professionisti e collaboratori, che ovviamente non basterà, ma a quanto pare è un primo passo. Sulle requisizioni vi diceva già Paolo Mieli, ci possono essere delle requisizioni di immobili di fatto per farne degli ospedali, e poi appunto lo stop alla pensione per i medici. È una norma che era già stata messa in atto da alcune regioni in difficoltà per il numero di medici, che adesso evidentemente si estende. Abbiamo parlato prima, Paolo, della foto dei francesi là, allegramente a chiacchierare su Canal Saint-Martin, ma c'è un'altra foto, che è la foto che troviamo quasi su tutte le prime pagine dei quotidiani, ed è la foto di Papa Francesco, una foto incredibile, bellissima, perché foto di Papa Francesco che cammina da solo al corso e va alla chiesa di San Marcello al Corso, appunto, a pregare il Cristo. Ma perché è andato lì? Perché, a parte che la foto è stupenda, come tu hai detto, e sarà una delle foto che passeranno alla storia e ci ricorderanno in questo momento, perché quel Cristo è un simbolo della lotta contro la peste del 1522 a Roma. La foto, come hai detto tu, campeggia sulla prima pagina di tutti i giornali, segnalo questa del Messaggero. Ma guarda che sui vecchi c'è un grande dibattito, sì, come hai visto oggi, sì, sul giornale. Sì. Se permetti, ti dico, ho visto un articolo di Filippo Facci sul Libero, che è andato a sentire dei medici, e dice: guardate, non c'è dolo, non c'è dolo in ospedale, è fatale che i medici diano la priorità ai più giovani, quelli che hanno più possibilità di farcela. Insomma, un articolo che cerca a dire che non è una cosa nazista, di sadismo. Sì. E oggi, a questo proposito, c'è una bella intervista a un grande vecchio italiano, un ex dirigente, sì, del Partito Comunista Italiano, Emanuele Macaluso, l'ha fatta con un certo vecchio su Repubblica, e Macaluso dice: sono i giorni peggiori della mia vita, spaventoso il cinismo contro noi anziani. Allora, rispondendo a quell'articolo di Libero che ho citato prima, capisco, è possibile che non ci sia dolo, però teniamo presente quello che dice Macaluso, nel senso che certe cose possono essere scelte inevitabili e sono comprensibili, però è vero che aleggia su tutti i giornali e nei commenti un cinismo che offende delle persone che sono in età, che leggono questi giornali e che si vedono trattati come pesi e come ingombri e quasi come se ricoverare una persona anziana in un ospedale al posto di un giovane fosse un crimine, e questo è una ingiustizia, dobbiamo dirlo a ragione Macaluso. Allora, adesso verremo a due grandi vecchi di altri settori, non della politica, che ieri ci hanno lasciati, e però prima, visto che siamo dal lato della politica, sfiorare lievemente il fatto che, allora, ci sono state le nuove polemiche nel fine settimana, soprattutto tra la Lombardia e il governo, per il tema della fornitura delle mascherine, e però devo dirti che il pezzo più interessante che ho trovato è a pagina 5 del Quotidiano Nazionale, dove a quanto pare la tensione con il governo non arriva da una regione di centrodestra ma da una regione di centrosinistra, ossia l'Emilia Romagna. Ed è un pezzo di Valerio Baroncini che ci dice che l'Emilia Romagna, sola contro il virus, ora basta, Roma deve ascoltarci. È quasi un retroscena, direi, insomma, no? Però racconta bene come tra le regioni che hanno la responsabilità della sanità e il governo si stia ingenerando qualche tensione, così come segnalo agli ascoltatori a pagina 12 del giornale questo tema del Sud bomba orologeria, l'SOS di Calabria e Sicilia che chiedono di mandare l'esercito. Verrei però con te a questi due grandi vecchi che se ne sono andati ieri, appunto, un grande giurista e un grande architetto. Grande architetto, ha una parte, forse uno dei più grandi architetti italiani, Vittorio Gregotti. I giornali sono pieni, dedicano pagine e pagine al ritratto di Gregotti, quello che fece. L'illuminista dell'architettura, è un articolo di Luigi Panza del Corriere della Sera, lo stadio di Genova, il centro culturale della zona di Belem a Lisbona, la bicocca degli Arcimboldi a Milano, sede della Pirelli, c'è anche un ricordo di Marco Tronchetti Provera, il teatro all'opera di Aix-en-Provence e anche le cose più contestate come il quartiere Zen di Palermo, che fu progettato nel 69, non verrà mai finito, ma riporta nei giornali quello che diceva Gregotti: è l'incompiutezza che ha causato le polemiche sullo Zen di Palermo, che poi si è trasformato in un tempio del degrado. Oltre a Gregotti, dicevi tu, un grande giurista che è Piero Schlesinger, che ha insegnato diritto privato alla Cattolica di Milano, ma è stato anche un banchiere, avrebbe compiuto 90 anni, Gregotti ne aveva compiuti 92, era stato ricoverato Schlesinger 10 giorni fa al Policlinico, e, insomma, è un grande personaggio della finanza italiana. Insomma, sono persone che io ho conosciuto molto da vicino, perdonami se sì, un po' la voce rotta, molto molto bene, sono stato amico personale di entrambi, soprattutto di Gregotti, e insomma, due grandi personaggi, e purtroppo saranno i primi, perché ci annuncia il Presidente del Consiglio che non solo il picco non è stato ancora raggiunto, ma che la settimana che si apre oggi sarà una settimana molto molto difficile, però l'affronteremo, sì, e supereremo anche questa. Oh, prima di chiudere, vediamo se riesco a farti sorridere, Paolo, perché ce lo chiede un ascoltatore. Notizie delle sardine ne abbiamo, perché paiono un po' scomparse in tutto ciò. Sei crudele, le notizie delle sardine, no, in compenso se vuoi ho notizie dei reali. Dei reali, sì, un mondo affascinante. Nonostante il coronavirus, i reali litigano sia in Spagna che in Inghilterra, non smettono di litigare in Spagna perché Felipe e Juan Carlos, siccome Juan Carlos è stato beccato in una storia di scandali dell'Arabia Saudita, che avrebbe dato dei soldi a lui, alla sua amante, insomma, una storia terribile, e Juan Carlos lo ha tolto da Felipe, scusami, il suo successore, figlio, lo ha tolto da via appannaggi. Sì. E ha rinunciato all'eredità, e ha rinunciato a questa eredità. Sì, ha fatto un grande gesto, ma questo è uno scandalo, adesso non vi voglio annoiare, ma è uno scandalo che sta travolgendo la Spagna. E in Inghilterra i due rampolli, William Harris, si sono messi a litigare, Cafone, il responsabile. La indiscrezione viene, che la riporta Antonello Guerrera su Repubblica, viene dal Melon Sunday, quindi, che è un giornale, quindi va presa con le pinze, però ci sia, è vero. Invece lo dico all'ascoltatore, non abbiamo notizie di Morgan e Bugo al momento, almeno non in coppia. Grazie anche per oggi a Paolo Mieli, ci ritroviamo ovviamente mercoledì, una pausa GR24, ci ritroviamo subito dopo, parleremo con Emanuele Capobianco della Croce Rossa Internazionale, Lorenzo Binismaghi sulle mosse di Lagarde e poi il vice segretario del PD Orlando con ovviamente Maria Latella. A tra poco.